Bravo! Corso di lingua italiana e civiltà. Livello elementare e avanzato. Di Caterin Caterinov e Maria Clotilde Boriosi Caterinov. Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. Quinta unità. In giro per la città. Dialogo. Aspettando l'autobus. Scusi, che autobus devo prendere per andare in piazza San Silvestro? Ma non so. Ah, ecco, può prendere il 52. Passa di qui, da via Crispi? No, credo di no. Comunque passa qui vicino, in piazza Barberini. Piazza Barberini? E come ci arrivo? Guardi, vada dritto fino al semaforo e giri a destra in via Sistina. Poi alla seconda traversa giri a sinistra. Dunque, dritto fino al semaforo, poi a destra, poi giro a sinistra alla prima traversa. No, attenzione, deve girare alla seconda. Ma è molto distante da qui. Ci vuole molto. Beh, a piedi ci vogliono circa 10 minuti. E a quale fermata devo scendere? Lei lo sa? È facile, guardi. Non può sbagliare. Deve scendere al capolinea. Come dice, scusi? All'ultima fermata. Ah, senta, lo sa che non si può salire senza biglietto? Ah, e dove posso comprarlo? All'edicola. Grazie mille. Non c'è di che. Proviamoci insieme. Esercizio 3. Ascoltate e ripetete. Scusi, che autobus devo prendere per andare in piazza San Silvestro? Ma non so. Ah, ecco, può prendere il 52. Passa di qui, da via Crispi? No, credo di no. Comunque, passa qui vicino, in piazza Barberini. Piazza Barberini. E come ci arrivo? Guardi, vada dritto fino al semaforo e giri a destra in via Sistina. Poi, alla seconda traversa, giri a sinistra. Dunque, dritto fino al semaforo, poi a destra, poi giro a sinistra alla prima traversa. No, attenzione! Deve girare alla seconda. Ma è molto distante da qui? Ci vuole molto? Beh, a piedi ci vogliono circa 10 minuti. E a quale fermata devo scendere? Lei lo sa? È facile, guardi. Non può sbagliare. Deve scendere al capolinea. Come dice, scusi? All'ultima fermata. Senta, lo sa che non si può salire senza biglietto? Ah, e dove posso comprarlo? All'edicola. Grazie mille. Non c'è di che. Vocaboli, pagina 132. Bar, edicola, banca, supermercato, cabina telefonica, ufficio informazioni, farmacia. Vocaboli, pagina 134. Gettone, patente, guida. Vocaboli, pagina 135. Autobus, macchina, metro, tram, taxi. Vocaboli, pagina 136. A sinistra, a destra, diritto, seconda strada, prima strada. Quinta unità. Ascolta e rispondi. Esercizio 16. Un automobilista parla con un vigile. Scusi, come si fa ad arrivare a Villa Borghese? Posso voltare a sinistra? No, in quella direzione non si può andare perché c'è il senso vietato. Allora dove devo voltare? Vada avanti ancora per 100 metri e dopo il semaforo giri a destra. Alla prima o alla seconda? Subito alla prima. Bene, ma dopo come continuo? Deve girare a sinistra per entrare dentro Villa Borghese. C'è un grande parcheggio, vero? Sì, ci sono sempre posti liberi. Ah, allora non c'è problema. Facciamo il punto. Comprensione orale, pagina 145. Scusi, come faccio ad andare a Brera? Al museo, vuole dire. Ci va a piedi o con l'autobus? Ma a piedi? È lontano? Oh no, a piedi ci vuole un quarto d'ora. Guardi, vada sempre dritto fino a che arriva in Piazza del Carmine. È una bella piazza, molto antica. Poi giri a destra e poi prenda la prima a sinistra. Quella è via Brera. Il museo è sulla destra. Dunque, in Piazza del Carmine giro a destra, poi a sinistra. Dico bene? Giusto. Grazie mille. Non c'è di che.